L'episodio di Gesù Cristo che muore sulla croce tra due ladroni è conosciuto nel mondo intero. Sono passati 2000 anni da quando questo fatto avvenne, eppure ancora oggi in tutto il mondo milioni di persone pongono fede in un uomo annoverato tra i malfattori che muore non come un eroe, né come martire, ma con la colpa di essere Dio. Perché si possa comprendere il valore del messaggio della croce, è necessario ritornare indietro di 2000 anni. Il cristianesimo non si diffuse mediante una forza coercitiva né mediante la potenza politica. Per quanto si dica, l'islamismo si diffuse mediante la spada, non con la persuasione. Sebbene in vero il cattolicesimo romano, che pretende di rappresentare la cristianità pur non essendone in grado, per un periodo di tempo si impose con la forza, il cristianesimo fin dall'inizio si estese mediante la persuasione, attraverso il contatto personale tra cristiani e coloro che non lo erano. Anzi, la Chiesa originaria aumentava, mediante il sacrificio del proprio sangue, al punto da indurre Tertulliano a affermare che il sangue dei martiri era il seme della Chiesa. Inoltre, il messaggio dei primi cristiani non ha mai fatto compromessi con la società nella quale si sviluppava, ma addirittura si proponeva come la sola vera fede, mentre ogni altra religione riconosceva gli dèi delle altre nazioni. Perciò, i cristiani rifiutarono di venire a patti con le altre religioni con le quali entravano in contatto ed esigevano che coloro che accettavano il cristianesimo, abbandonassero ogni altro culto diverso da quello al Dio Trino. Ma molto probabilmente l'aspetto che più di ogni altra cosa frenava l'accettazione del messaggio del Vangelo di Cristo che muore in croce era il carattere odioso della croce per i giudei e per i pagani. Solo i traditori, gli schiavi e i peggiori criminali venivano crocifissi. A distanza di 20 secoli, poco o nulla da vergognarsi nel fatto che il fondatore della fede cristiana sia stato posto a morte sulla croce, ma per i greci e i romani dell'epoca la crocifissione di Cristo bastava da sola a contrassegnarlo come appartenente alla peggiore specie di criminali. Ciò significa che dovunque arrivasse il cristianesimo, non appena diveniva noto che il suo fondatore era stato crocifisso, greci, romani e perfino giudei non potevano evitare il pregiudizio a tale riguardo e considerarlo con disprezzo e derisione. È in questo contesto di diffidenza che dobbiamo considerare la crocifissione di Gesù. E non solo. Il cristianesimo aveva da offrire a chi poneva fede in Gesù Cristo crocifisso l'ostracismo dei loro amici, la probabilità della persecuzione, la possibile confisca dei loro beni, il carcere e perfino la morte non appena veniva noto all'autorità la scelta della loro fede. Ma ciò che fa pensare che maggiori erano le persecuzioni, più si intensificava la predicazione cristiana e più si diffondeva il messaggio del Vangelo che Cristo era morto in croce. Questo episodio, come del resto la sua nascita e la sua vita, non era altro che l'adempimento di ciò che era stato scritto di lui secoli prima. Questo aspetto non può passare inosservato perché dimenticare che la crocifissione di Cristo era nel piano di Dio, preordinato prima della fondazione del mondo, è svalutare un evento di portata mondiale. Così si espresse il profeta Isaia. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. 53:12. Perciò, al di là dell'episodio storico e salvifico, la crocifissione di Cristo sulla croce tra due ladroni di per sé ha un valore inestimabile, inestimabile come tutte le profezie. Ma prendiamo in esame l'episodio della crocifissione di Gesù come raccontato nel Vangelo di Matteo. Ora, uscendo, incontrarono un uomo di Cirene, di nome Simone, che costrinsero a portare la croce di Gesù. E, giunti sul luogo detto Golgota, che vuol dire il luogo del teschio, gli diedero da bere dell'aceto mescolato con fiele. Ma egli, avendolo assaggiato, non volle berne. Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirando a sorte affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato a sorte. Postisi quindi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo, posero anche la motivazione scritta della sua condanna, costui e Gesù, il re dei giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E coloro che passavano di là lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce». Similmente, anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani facendosi beffe, dicevano: «Egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso, se è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce, e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora, se veramente lo gradisce, poiché ha detto: «Io sono il figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo ingiuriavano allo stesso modo. Matteo 27, 32-44. Tre uomini vengono condannati alla crocifissione. Nessuno dei tre si conosceva. Perciò, per gli altri due ladroni, Gesù era uno di loro. Non sapevano cosa avesse fatto, ma si era appeso ad una croce. Come uno di loro significava che aveva commesso qualcosa di grave. In seguito i soldati gli porgono dell'aceto perché soffra di meno, ma Gesù non lo beve. I passanti lo ingiuriano, ma lui non replica. I sacerdoti lo provocano, ma lui tace. I ladroni sentono e vedono tutto questo e iniziano ad ingiuriarlo. Questo è un poco il comportamento di tutti noi. Spesso abbiamo un'opinione di Gesù che riflette il pensiero comune a tutti. Era un buon uomo e per questo aveva fatto tanto bene al prossimo. Non solo Gesù non replica alle offese, ma ora si interessa di sua madre e a voce alta chiede al padre di perdonare coloro che gli fanno del male. I ladroni sentono e uno di loro rimane scosso. Nel Vangelo di Luca leggiamo che uno dei due ladroni inizia a prendere la parte di Gesù, ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo: «Non hai neppure timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna?» Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Luca 23, 39-41. Un ladrone sta difendendo una persona che non conosce. Il comportamento di Gesù gli ha infuso dei sospetti. Inizia a comprendere che non è un uomo come tutti gli altri uomini, comincia ad avere fede in lui. Il ladrone non aveva ricevuto delle rivelazioni, non era sotto l'influenza di grandi sentimenti anche, perché in quel momento soffriva, non aveva visto dei miracoli, eppure prese le parti di Gesù. I miracoli, le rivelazioni sono catalogabili fra le cose possibili, ma vedere un uomo morire in croce come un malfattore e credere che non lo sia non è da tutti. Noi esseri umani siamo pronti a credere ad una divinità potente, siamo disposti a porre fede in una personalità regale, ma avere fede in un Dio umile che muore in croce, abbandonato, umiliato, schernito, è uno scandalo che pochi sono disposti ad accettare. Il ladrone vede Gesù che soffre e non se lo merita, mentre comprende la sua condanna non ha scusanti. Perciò apre la bocca e rivolgendosi a Gesù dice: «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Questa richiesta del ladrone scaturisce da tre presupposti. Uno, si riconosce peccatore e meritevole di giudizio. Egli disse: «Costui non ha fatto nulla di male». Due, chiede misericordia. Disse a Gesù: «Ricordati di me». 3. Riconosce Gesù come re dicendogli: «Quando verrai nel tuo regno?» La preghiera del ladrone ravveduto porta Gesù a rispondere: «In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso». Questo episodio, certamente unico, racchiude il messaggio del Vangelo. In genere, l'uomo è in cerca del sensazionale, dell'eclatante, del miracoloso. I Vangeli ci riportano l'episodio di Erode, che desiderava vedere l'operato miracoloso di Gesù in azione. Noi siamo tutti come Erode, proprio perché questa nostra inclinazione sbagliata potrebbe ingannarci inducendoci a porre fede in Gesù in modo errato. Dio ha stabilito di salvare l'uomo mediante la pazzia della predicazione del Vangelo. mediante il messaggio di Dio che ha assunto una natura umana per morire in croce. Dio ha scelto questo tipo di fede obbrobriosa, perché chi pone fede in Lui non sia condizionato o sviato dalla gloria del contenuto del messaggio. Le religioni si vantano della potenza della loro divinità. Presentano il sensazionale della loro fede, mentre i cristiani, pur presentando una divinità potente, come nessun'altra, chiedono di porre fede nella debolezza di Dio, offrono la vittoria mediante la sconfitta. Come Gesù ha vinto lasciandosi crocifiggere, così i seguaci di Cristo ottengono la salvezza e la vittoria con la rinuncia della propria volontà e delle proprie convinzioni. Il sensazionale e il miracoloso fanno parte delle cose credibili, tanto è vero che noi siamo pronti a credere anche agli UFO, ma accettare di essere dei peccatori meritevoli di condanna, come fece il ladrone sulla croce, credere che Gesù sia il solo in grado di salvarci dalla condanna eterna senza nessun ausilio da parte nostra, è un atto divino e non umano. Il messaggio della croce non affascina, non incanta, non è amabile come non lo è essere crocifissi, ma nessuno può evitare di identificarsi con il ladrone sulla croce. Egli non aveva fatto nessuna opera meritevole, non era stato battezzato. Non aveva nulla di offrire, non aveva nessuna speranza, eppure in quelle disperate condizioni si mise dalla sua parte e lo difese pubblicamente in modo che tutti sentissero, pose fede in Gesù quale Re e Salvatore, lo invocò di salvarlo personalmente ed ottenne ciò che aveva chiesto. Con nulla ottenne tutto, con un solo atto di fede ottenne la salvezza della sua anima una volta per sempre. Non si fa parte del regno di Cristo per sbaglio e nemmeno si ottiene la salvezza per opere. Altrimenti Cristo sarebbe morto inutilmente, ma, come il ladrone sulla croce, si deve cambiare opinione su se stessi, cioè ci si deve ravvedere, ci si deve riconoscere inesorabilmente perduti senza scuse, senza merito, senza rimedio, anche quando, diversamente dal ladrone, si conduce una vita umanamente degna di merito, e in questa presa di coscienza si invoca la salvezza. È per questo che Gesù morì in croce, è per questo che Gesù morì fra due ladroni. Io ho fatto come il ladrone pentito, e tu? Marzo 2005. Ellero.